sai che non voglio e ricominci a parlare. Troppi ricordi che voglio dimenticare. Non dire una parola, lo sai, io non ti credo più. Meglio dimenticare e nulla più. Io me ne andrò per le strade in cerca di qualcuno come me. Forse non è poi tanto, ma basterà. A non sentirsi soli, perché soli non si può. Senza un amico, senza un amore, no. In tutti i posti conosciuti con te, e non so spiegarmi cos'è stato tra noi. Te ne sei andata via senza ragioni né un perché.